Ecco, hola. Questo è il parlascolta suo. Vedi che non si sente neanche. Va a fondo scala, ma non... Non si sente neanche la voce. Un danno, non me ne vedo dietro. Vedi che va a 9.30, ma non... Hola. Prova. Qui c'è il parlascolta di qua. Ma qua non c'è un lugar. Si sarebbe dovuto sentire, vedi? E invece non esce. Hola. Riposando, dai. Pochino. Sono coricato un po' perché ero stanco. Infatti dai, si sente la modulazione che dà, come si dice, la camera da letto. Ma non hai lavorato oggi, no? Oh no. E vabbè, meglio ti riposi, se no vuoi. Perché non c'è niente, se no mi hai mandato. Vabbè, purtroppo. È un casino. Pupo, tu ce l'hai bambino, sì? A chi non si intende? Gabri, cosa c'è? Sta giocando, ma è un rompimento di scatola, non mi ha fatto dormire. Bambino sveglio, meglio sia sveglio, è dormito, che è addormentato, diciamo, meglio sia bello citato. Bambino deve giocare, deve decidere di giocare, divertire. Mamma, cazzo, ma non è possibile, cavolo. Non ha asciutato un attimo. Che svettina, pure io voglio dormire però, perché sono molto stanco. No, sono tu come piccolino, te ricordi che casino facevi? Tu non facevi dormire nessuno come piccolino, io non ricordo, padre mi diceva, questo Antonio rompe cose da mattina alla sera, non ci fa riposare un attimo. Di carità. Una cosa, cioè già non mi faccio, mi combinavo tutti i colori, però a che dura, e sei qui, a che no, che sennò passi ai giaffe. Ehi, girato, vai, già, lascia giocare, poi si stanca, crolla e si addormenta, dai. I bambini ormai sono tutti vivaci, anch'io ho un nipote di 5 anni, ma poi non asciutta mai. E appena abbiamo preso l'asilo e sempre a giocare. Mi sgubarato per la nonna, te gioca con tuo nipote, va, e la bottiglia. Non asciuttava nulla, ma sono ragazzi d'oggi, capito? Sono più vivaci e così via. E così è chiesto. Così è chiesto, quando la biglia e vuole farti dispettucci e vuole correre e vuole fare niente, ridendo bucarotto, io la vuoi fare, è fatto così, non sta facendo dispettucci. Ma l'asilo sta andando, no? E c'è stamattina tirato a parte due a mezzo, l'ho tirato oggi. E dove è Osino? Giù alla, alla cosa, dove c'è la cola, no? Dietro. O giù in via Botta. Via Pascoli lo porto. Oggi ho pagato anche le ratte di lui. Ah, via Pascoli, ho capito, capito. Oggi ho pagato anche le ratte dell'asilo nido, oggi un po' di meno ne ho pagato, 80 e qualcosa, 84 euro. Ma... E quello che si è andato in bagatica, ho pagato anche roba in anticipo, ormai non c'ho niente a mettere i piedi. Cioè, fa un po' di spesa, un po' di cose, è arrivato lo stipendio e poi adesso c'ho da aspettare l'acqua, ma quella aspetto qualche giorno, aspetto e poi a ottobre c'ho la revisione della moto che sono 79 euro di ragli l'altro, ma come mai, ma dove è mai possibile che per revisionare un mezzo si paghi così tanto? Chi ci sono macchie? Con la revisione auto la paghi come una macchina, io l'ho fatta lì, ho pagato 79 euro, ho pagato la macchina, la stessa cifra, in effetti perché non c'è bene anche troppo, scusa, la moto, la macchina c'è, fa di che differenza? Boh. No, ma cioè, né per la macchina né per la moto, cioè, ma cosa tutti quanti che si dirà? Cioè, andava bene una cinquantina di euro, andava bene, che sono anche troppe, cioè, per che cosa? Per farla girare in due rulli e per dirsi che deve provare la revisione, cioè, ma stiamo scherzando cosa? Cioè, ma di cosa mi va vedendo? Purtroppo è voler fare. Sta per essere beccato, se c'è la visione, se questo, ho capito, fate casino. Il marito però è troppo, sono troppi soldi, sono, cioè adesso io sto saltando a comprarmi una macchina, perché? Anche vivo un po' di navi pure, c'è un passaggio, cazzo, mi pone, cazzo, c'è un 1200, cazzo, 400 euro quasi di passaggio, ma perché? Ma stiamo scherzando, cioè poi la devi comprare, è tutto, ci vuole un patrimonio, ma io sto tentando a prenderla perché mi serve, però perché non ci sono soldi che... Cioè, ci sono studi fare una cosa del genere per il momento. Ho campo, occupare già è da. Io proprio preferito pagarmi le cose e campare e aspettare un attimino. Prima o poi arriverà qualche soldo. Ecco, perché arriverà. Si sente bene. Ma anche questo corso per l'albo dei registi, cosa. Ah, ma se a bufurendi o cosa? Cioè 400 euro di passaggio, ma stiamo scherzando. Ma non ti piace anche se piove in macchina, i motobili Eva, Freddo e compagni. Purtroppo quando non c'è materia prima, purtroppo è così. E anche la macchina vuole campata oggi, assicurazione, bollo, una catruffa del bollo, cazzo, è pazzesco. Tutti i soldi regalati. Appunto, è tutta una truffa. Ma rimase ma buffonendo cosa? No, non è possibile. Io no, la verità, non devo aspettare, non me la posso comprare. È una macchina per il momento come sono, anche se costa 500 euro. Io non me la posso comprare a Parabà. E c'è una macchina a me che la trovi anche a 500 euro. Quel cazzo ci devi fare il passaggio. Poi ci devi pagare l'assicurazione. È tutto. Cioè, mi vuoi un po' di là, un po' di là. Ci vuole parecchi soldi, parecchi soldi. Ohia. Ogni cosa ci vuole la moneta. Di là, non c'è nulla da fare. Dove ti muovi, soldi. Devi fare quello, il passaggio, è bollo, è quell'altro. Ohia. Lascia perdere. È un casino, tu adesso piano piano ti sistemi, andiamo a verciare con l'ufficio, un domani, la busta paga, con la busta paga ti puoi mettere almeno una rata piccola, bassa, che le fanno basse, però logicamente c'è una busta paga, ci vuole. E piano piano ci paga, capito? E se, su che andiamo, vai. Sta pagata ce l'ho, perché anche dove lavoro adesso ce l'ho. Però il problema è che no, cioè, o mangio o compare già edda, o mi pago le cose o compro lì. Sono due le cose. Io ho preferito pagarmi le cose e non avere nemici con nessuno, anche, cioè, di non staccarmi la corrente. Ho preferito questo, pagare tutte le cose del bambino, eccetera eccetera. Io ho preferito questo. Poi la macchina si vedrà, quando c'ho qualche soltanto dovrà arrivare dei soldi, molto molto di più, molti più soldi dovranno arrivare. Appena arrivano molti più soldi ando e me la compareggio, cosa devo fare? E prima parati quello di pagare, poi piano piano, piano piano, non è che è già viva, certo, logicamente la busta paga non vuole la busta paga, 300 euro che la finanziaria non ti dà di nulla, lo sai, ti fanno solo i conti in tasca la finanziaria, dico tu c'hai una casa, c'è un bambino, sei tu devi campare, per campare ci vuole questa cifra, così via. E così via. Adesso parati quello che sistemati quella roba che devi sistemare, poi piano piano, quando c'è qualcosa in più, da puoi andare, da concessionare, da puoi prendere. Non grande, una macchina per te. E via. Beh, io c'ho, cioè, i roghi ve l'ha venduto la bagata, cioè, adesso a ottobre, fra poco, devo portarla, la porterò da Cano, me la faccio fare, a fargli fare la revisione, perché gliel'ho già detto, cose. Sono soldi, non ti devo, non t'avanza nulla da qui a fine del mese. Mi ha dotato, non t'avanzando nulla, non è che ti pensi già avuto però. Cioè, non le mettiamo in conto. Che la maga non qui la cosa di suo bambino. La gente col culo degli altri è sempre pronta a pagare, a parlare, però non sanno i problemi che ci sono. Purtroppo è così, insomma. Anch'io ogni mese, quando ti do la pensione, c'è questo a pagare, c'è l'acqua, c'è la luce, le solite cose di casa, diciamo, là. E io vado in campagna, quando mi fai qualcosa, per forza, obbligatamente devo pigliare la macchina. Non fare la spesa, non prendo la macchina. Devi fare così, devi pigliare la macchina. E la macchina, come pigliare la macchina, benzina, gomme, olio e così via. Purtroppo piano piano, passa la volta. Già arriva la macchina, piano piano, già arriverà. E allora? Ma mi fa ridere la gente, curu curu di là ci sono buoni induti a pavità. Cosa mi hai rotto le balle? Basta con gli schiaffi, Oh! Ma che domani mi devi cudi a ciaffi? Oh! Cioè, cosa vuoi fare? C'è anche mia cognata molte volte, fa in fretta a parlare, senza soldi, mia, cioè, ma il cazzo non se ne fregano, sono moglie e marito, hanno un buonissimo stipendio, sono due commessi, gli danno tutto quello che devono dare, hanno un buon stipendio, sono in due e riescono a fare tutto. Io sono una persona solo, cioè, essere in travaglio vinese, non lavoro, ti abbigli luci, e questo è il punto mio. Cioè, molte volte, io gli ho sempre detto, col culo degli altri siete sempre buoni a parlare, quando non vi nero, cioè, quello che bisogna pagare tutto. Non è che per mese bisogna mangiare, bisogna fare. Io quando esco da casa, la benzina la moto, anche andando e tornando a capo, a quei 5 euro, ci devi mettere. E cazzo fa che non ti mangi una cosa, non ti fa una colazione veloce per prima di andare al lavoro e tutto. Li spendi i soldi, non mi puoi da fame. Purtroppo così, i soldi sono pochi, bisogna tirare. Vabbè, la gente parla tanto per aprire bocca, non capito, però non sanno la situazione degli altri. Anzi, da cognata già la sa la situazione, che non lo sa. Spara cazzate. E tu lascia perdere, tu fai la testa tua, fai quello che stai facendo prete, poi già arriverà la macchina con calma. Allora, questo qua c'è sempre il gussisso, sempre il gussisso. Questo è il mezzo scorso, o quando un mezzo di cazzo roba di spazzatura ho pagato, per tenere una, 200 euro, ma cioè, come fai a tirare avanti? Come ti si va? Cioè, se qua non lavori, quello che non ho capito, se io che non lavori, cazzo, già ce n'è poco, se io che non lavori, non mangi, non vai avanti, non riesci a pagarti nulla. Cioè, infatti io sto cercando un lavoro fisso, che arrivi ogni mese, arrivi quel fisso, e boh, ed è finito lì il discorso. E anche io ti ho detto la cosa che bisogna fare. Andare, tu sei anche la precedenza, devi fare domanda dove ti ho detto io. E andare all'assistenza sociale, per giù da noi, dove ero io prima, stanno entrando così la metà della gente. Con l'assistenza sociale, avanti sono entrati, una sciarata sono entrati. Gente, neanche sono lì, sono qua. Yes, niente che non fate nulla, mandrona da voi. Niente che non se ne militeggia pure. Allora, io vorrei parlare con qualcuno, perché non è possibile. Tu devi andare a parlare, tu non so se ce l'hai, l'assistenza sociale, io dici. Mi faccio entrare di là così, perché stanno stando piano e pulci. Ma non andare sì, vai, se ce l'hai piangi, fai qualcosa, perché la gente vuole fatta così, vuole fare. Beh, già lo so già. Già lo so, già, Mari. Adesso mi hanno promesso a fine mese un altro lavoro. Speriamo che mi dica di sì o che mi faccia un contratto di lavoro. Non ho più gana io di stare in giro, Marino, che facciamo la china. Cioè, anche là mi sfascerò per la schiena, ricordo, però a qui dura, sei a casa e tutto, e c'è il contratto fisso. Speriamo che mi dica di sì a fine mese. Speriamo, me lo auguro qua. Perché non bravo, cioè io non ce la faccio più. Come c'è il contratto ufficio, sei più tranquillo e sereno, che c'è la busta paga e si aprono le porte, hai capito? Con la busta paga ci abbiamo noi, l'azienda nostra, si apre subito la porta, la metà della gente, appena entrato, ha aspettato qualche mese e gli ha sappiato la macchina nuova, gli ha sappiato la casa e così via. Perché è vero che l'azienda e l'azienda è sana, capito? L'azienda è sana, paga ogni 15. Se c'è qualche prestamento in mezzo, trova anche 2-3 giorni prima, 5 giorni prima il bonifico ti fa, capito? La gente è sana, però tu devi parlare con tutto l'ho detto che devi parlare. Certo, Mari. Purtroppo è così, è così. Allora, un attimino in bagno, aspetta. Dai, già sono qua, io mi sto facendo radio con le dirigenti a casa e sto facendo radio, dai. Marino. Sono qua, dai. Che cazzo. Cavolo, quando ti sento bene con la cassa. La modulazione è chiara, ci sono 5 gatti, o 5 gatti, dice. Ah beh, questo segnale non è A, perché con il cameravaletto non trasmette, non c'è nulla, capito? Come cosa, però sento molto bene. Hai visto il progetto Luca, sì? Ti ha mandato questo? Sì, sì, bello, bel lavoro. E a me non stavo più sul tempo, capito? A me non stavo più sul tempo e sinceramente in quel periodo c'avevo anche paura di salire sul tempo. Almeno faccio tutto a terra, c'è la manovella, giro, voglio fare la manutenzione e non c'è bisogno di nessuno. Prendo, abbasso, faccio la manutenzione e poi sollevo tutto. Tranquillo e sereno. Cappa, se per l'ennesima volta torna la Stellar in funzione. Sono 90 anni virai. E qua stella c'era la peggio, poi mi sera l'avevo scesa perché c'era il salario mio. Vabbè, il coso di ferro e lui aveva problemi alla massa. Allora l'ho fatto del cellulino, poi l'avevo ripassato e mi si è rotto il coso all'interno. E Luca mi ha tutto sistemato, capito? Il filo interno. Poi mi si era buccato anche la protezione della bobina, perché c'è una bella bobina all'interno. Ah, ci ho messo un coso di un tubo d'acqua, capito? E ho fatto il corpo bobina e un tubo d'acqua. Messo il tappo, l'abbiamo buccato, poi Luca mi ha fatto il porta protezione. Una bella pulita e adesso va benissimo, ultima, va tutto bene la stella. Fino a quando campa, poi già un pegno, e l'altra antenna c'è in terra, piazzata, c'è in terra, e la canna pesca, diciamo. Ah sì, no, io ho questa che è una bomba, un amore, la GPE dell'Assirio, che sarebbe quella che fa la Midland, la testa antenna, è contro quella contrarradiale, ma è una bomba, è una bomba. E già qui, 9:20 sta arrivando, 9:20, già l'abbiamo ucciso, perfetto, già va bene, ottima. È un'ottimissima antenna, proprio un'ottimissima antenna. Guarda, la stessa antenna la fa anche la Midland, solo che la vende un po' di più della Sirio. Ho visto il listino che è un po' più alto. La fa la Midland, la fa qualche altra casa pure, fatta così, capito? Già va bene, tanto io, tu, per la gente che sta entrando, va bene, metto la gente rimane a fare un riporto, la metà della gente. Scusa un attimo, ho dato un messaggio a tu. Già, va. Anzi, mi devo tornare 10 minuti, ci sentiamo dopo, vai. Yeah, va bene, Mario. Avanti sul 10. Attenzione 10. E chi è? Avanti sul 10, chi è? Avanti. E beh, Antu, aspetta un attimo, secondo la scheda. E a luce. Sono qua, sono goccato, dimmi. Io ho detto, aspetta un attimo, sto controllando la scheda. E fai. E avanti, Antonio. E vale. Ah, ci sento, vabbè, sta facendo una prova, guarda, sto provando questo apparecchio, c'è gente a casa. Ok, ci sentiamo dopo. Gianni, non è entrato? Oh, quanto pare non è ancora entrato, io sono a letto, sono ancora. Capo, dai, non c'è problema, Mari. Tanto ti ho sentito, ti ho risposto. E ci sentiamo dopo, va. Ciao. Ciao.